ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Dodicesima puntata. Arrivammo molto in alto nel paese, su una specie di piazza, e non c'era più sole, non c'erano più campane da capre né zampogne, non c'era mia madre, non c'erano donne, e l'arrotino mi indicò una bottega. «Volete conoscere uno che ha un punteruolo?» mi chiese. Una testa di cavallo sormontava in legno dipinto l'arco di pietra della bottega, e ai lati dell'ingresso, agli stipiti e agli stessi battenti aperti della porta, io vidi appesi corde e cuoi con fiocchi, campanelle e pennacchi multicolori. Lasciò l'arrotino il suo trabiccolo nella piazza e saltò dinanzi a me sulla soglia. Mi portò dentro. «Ezechiele!» gridò. «Ezechiele!» Era un lungo corridoio dentro, con fondo buio, e corde e cuoi, fiocchi, campanelle e pennacchi, redini, fruste e selle, ogni sorta di paramenti e finimenti da cavalcatura, appesi come fuori alle due pareti e perfino sospesi al soffitto. «Ezechiele!» gridò di nuovo l'arrotino mentre avanzavamo. Di dietro a noi arrivò qualcuno di corsa, ci urtò con dolce violenza, passò oltre e una voce di ragazzo esplose: «E Calogero, zio Ezechiele!» Continuammo noi ad avanzare per lo stretto passaggio tra paramenti e finimenti di cavalcatura, selle, redini, fruste, eccetera, e ormai andavamo tentoni, in perfetto buio, scendevamo nel cuore puro della Sicilia. L'odore era buono in quel cuore nostro, era per le invisibili corde e i cuoi come di polvere nuova, terreno, ma non ancora contaminato dalle offese del mondo che si svolgono sulla terra. Ah, io pensai, se davvero credessi in questo. E non era come se andassi sottoterra, era come se andassi sulla traiettoria dell'aquilone, avendo l'aquilone negli occhi e perciò non avendo altro, avendo buio e avendo il cuore dell'infanzia, siciliano e di tutto il mondo. Ma infine scorgemmo dinanzi a noi un lumicino, e il lumicino divenne chiarore, e un uomo pigliò forma, seduto dinanzi a un minuscolo tavolo con redini e fruste e ombre di redini e fruste penzoloni sul capo. «Ezechiele!» chiamò l'arrotino. L'uomo si voltò e la sua faccia apparve paffuta, e i suoi occhi piccini brillarono come se dicessero: «Sì, amico mio, il mondo è offeso, ma non ancora qua dentro». Con voce armoniosa egli domandò: «Vuoi il punteruolo, Calogero?» E allora vide me, e i suoi occhi piccini si dilatarono e furono preoccupati, finché l'arrotino, mio aquilone, non disse: «Non mi occorre per stasera, Ezechiele. Ho trovato quest'amico che ha una lama». «Ah, davvero?» l'uomo esclamò, e si alzò in piedi, di bassa statura e paffuto in tutto il corpo, con riccioli biondi, con fossette nelle guance, e con gli occhi piccini ritornati, vividi come se di nuovo dicessero: «Il mondo è offeso, ma non ancora qua dentro». Cercò forse sedie sotto le cortine di corde, fiocchi e cuoi, smosse rumori di campanelle dappertutto, poi si rimise a sedere senza aver nulla trovato o concluso. «Digli che mi fa molto piacere», disse all'arrotino. C'era accanto al tavolo una scaletta di legno che si perdeva tra i finimenti appesi al soffitto, e l'arrotino vi si appoggiò con una mano. «Anche a lui fa molto piacere», rispose. «Molto piacere», dissi io. E l'uomo mi esaminò sorridente, sicuro di sé che mi facesse piacere, ma perché lo aveva detto l'arrotino, non perché lo dicevo io. Fu con l'arrotino che continuò a parlare. «Mi sembra che si veda bene», disse ancora esaminandomi. «L'ho visto subito», l'arrotino rispose. «Non c'è da ingannarsi». «E l'uomo Ezechiele?» «No, non c'è da ingannarsi». «E l'arrotino?» «Egli soffre». «E l'uomo Ezechiele?» «Sì, egli soffre». «E l'arrotino?» «È per il dolore del mondo offeso che soffre, non è per se stesso». «E l'uomo Ezechiele?» «Non per se stesso, si capisce. Ognuno soffre per se stesso, eppure», e l'arrotino, Eppure non vi sono né coltelli né forbici, non vi è mai nulla. E l'uomo Ezechiele, nulla, nessuno sa nulla, nessuno si accorge di nulla. Tacquero e si guardarono. E gli occhi dell'uomo Ezechiele si erano riempiti di tristezza. Gli occhi dell'arrotino scintillavano più bianchi che mai, come quasi spaventati nella faccia nera. «Ah!» disse l'arrotino. «Ah!» disse l'uomo Ezechiele. E si avvicinarono l'un l'altro, di sopra al minuscolo tavolo. Si parlarono all'orecchio. Poi l'arrotino, tirandosi indietro, disse: «Ma il nostro amico ha una piccola lama. È per il dolore del mondo offeso che soffre». «Sì», l'uomo Ezechiele disse, e mi guardava. I suoi occhi piccini brillavano tristi, come se dicessero: «Molto, molto offeso il mondo, molto offeso, più che noi stessi non sappiamo». Poi di nuovo si voltò a guardare l'arrotino. «Gli hai detto come noi soffriamo?» chiese. «Avevo cominciato a dirglielo», l'arrotino rispose. E l'uomo Ezechiele: «Bene, digli che non soffriamo per noi stessi». «Questo lo sa», l'arrotino rispose. E l'uomo Ezechiele: «Digli che non abbiamo nulla da soffrire per noi stessi, non malanni sulle spalle, né fame, e che pure soffriamo molto, oh, molto». E l'arrotino: «Lo sa, lo sa». E l'uomo Ezechiele: «Domandagli se davvero lo sa». E l'arrotino a me: «Vero che lo sapete?» Io assentii col capo. E l'uomo Ezechiele si alzò in piedi, batté le mani, chiamò: «Nipote Achille!» Dal fitto dei finimenti si affacciò il ragazzo che ci aveva urlato nel corridoio. «Perché?» l'uomo Ezechiele gli disse. «Non stai qui ad ascoltare le parole nostre?» Il ragazzo era molto piccolo, con riccioli biondi come lo zio. «Ascoltavo, zio Ezechiele», rispose. L'uomo Ezechiele approvò e di nuovo si rivolse all'arrotino. «Dunque», disse, «il vostro amico sa che noi soffriamo per il dolore del mondo offeso». «Lo sa», l'arrotino disse. L'uomo Ezechiele si mise a riepilogare. «Il mondo è grande ed è bello, ma è molto offeso. Tutti soffrono ognuno per se stesso, ma non soffrono per il mondo che è offeso, e così il mondo continua ad essere offeso». Si guardava intorno parlando, e i suoi occhi piccini si chiusero nella tristezza, poi cercarono vivamente l'arrotino. «E hai detto al nostro amico?» egli disse, «che io scrivo sui dolori del mondo offeso». C'era infatti una specie di quaderno sul minuscolo tavolo e un calamaio, una penna. «Gliel'hai detto, Calogero?» egli disse. L'arrotino rispose: «Stavo per dirglielo». Ed egli disse: «Bene, al nostro amico puoi dirglielo. Digli che come un eremita antico io trascorro qui i miei giorni su queste carte e che scrivo la storia del mondo offeso. Digli che soffro, ma che scrivo, e che scrivo di tutte le offese una per una, e anche di tutte le facce offensive che ridono per le offese compiute e da compiere». «Coltelli, forbici, picche!» gridò l'arrotino. E l'uomo Ezechiele posò una mano sulla testa del ragazzo, indicò me. «Vedi questo nostro amico?» disse. «Come tuo zio, egli soffre. Egli soffre per il dolore del mondo offeso. Impara, nipote Achille, e ora bada tu alla bottega mentre io accompagno Calogero e lui a bere un bicchiere di vino da Colombo». Così risalimmo all'aperto e l'aria era bruna. Suonavano le campane dell'Ave Maria. L'arrotino afferrò il suo desco ambulante per le stanghe e cominciò a spingerlo a camminare. E io camminai con lui. L'uomo Ezechiele camminò tra noi, piccolo e a piccoli passi, avvolto in uno scialle. «Molto offeso è il mondo, molto offeso è il mondo», dicevano i suoi occhi guardando intorno con tristezza. Poi si posarono sul desco immoto dell'arrotino. «Che hai, Calogero, sul tuo mulino?» egli chiese, fermandosi. «Che ho?» l'arrotino chiese, anche lui, fermandosi. «È una carta», dissi io. E l'arrotino lanciò un urlo. «Porco diavolo!» urlò. un'altra volta. Contravvenzione un'altra volta? Chiese l'uomo Ezechiele, e l'arrotino urlò: un'altra volta. Levò le braccia al cielo, spiccò due o tre stravaganti salti per aria, si morsicò le mani e si cavò il copricapo da spaventapasseri, lo scaraventò per terra. Ma così, diceva. È la terza volta in un mese, gridò. Forbici, punteruoli, coltelli, picche e archibugi, mortai, falci e martelli, cannoni, dinamite, 100.000 volts. Ezechiele fece allora il gesto di Giosuè quando fermò il sole e l'arrotino si fermò. Amico, disse l'uomo Ezechiele. Sì, amico, l'arrotino rispose. Per che cosa soffriamo noi? L'uomo Ezechiele chiese. Per che cosa? Rispose l'arrotino. Per il dolore dell'umano genere offeso. E l'uomo Ezechiele. Non per noi stessi, dunque. Per il dolore del mondo offeso, non per noi stessi. E l'arrotino. Non per noi stessi, si capisce. E tacque. Riafferrò per le stanghe il suo mulino, tornò a spingerlo e tutti con lui tornammo a muoverci. Ma come farò a pagare? Borbottò poi. Parve poi udire qualcosa di preoccupante e di nuovo si fermò e agitò il suo trabiccolo stando in ascolto. Non sento i denari, disse. Era quasi buio, imbrunire estremo, e i suoi occhi scintillavano come affilato bianco di coltelli nel nero della faccia. Egli aprì il cassettino, guardò dentro, aprì ancora di più, tirò il cassettino del tutto fuori, lo rivoltò. Nulla ne cadde. E l'uomo Ezechiele disse: ricordati che noi non soffriamo per noi stessi, ma per il dolore del mondo offeso. Me lo ricordo, l'arrotino borbottò. E l'uomo Ezechiele chiese: quanto c'era? Rispose l'arrotino: c'era pane, c'era vino e c'era tasse. 2,30, 2,30 e 2,30. Una discreta giornata. Bene, disse l'uomo Ezechiele. Il vino l'avrai con me ora da Colombo e il pane, se permetti, posso offrirtelo stasera alla mia mensa. Se, l'arrotino continuò, e il capo me lo copre il riverito cappello di mio nonno, le spalle me le protegge la giacca benedetta di mio padre, le vergogne me le nascondono i pantaloni del prete Orazio, i piedi. Molta bontà vi è tra gli uomini, molta bontà. E il tetto lo ha a casa calda con le mucche del Gonzales. Perché lavora uno in tre mestieri? Per vivere di carità, come prescrisse il Nazareno. Ma figliolo, l'uomo Ezechiele disse, pensa che i tuoi denari te li ha forse presi un povero viandante. Forse era da molto che egli non mangiava e non beveva. Tu non puoi essere che contento d'avergli dato il modo di sfamarsi e dissetarsi. Restò in silenzio l'arrotino e ricominciò a spingere il suo trabiccolo e camminando sospirava. Poi camminando parlò. Giusto, disse, giusto. Non queste sono le offese al mondo per le quali possiamo soffrire. Queste non sono che piccolezze tra poveri uomini del mondo. Ah, coltelli, ah, forbici, vi è ben altro al mondo che offende il mondo. Ben altro, mormorò l'uomo Ezechiele. Ben altro, l'arrotino gridò. E le piccolezze non sono che piccolezze, piccoli scherzi tra uomo e uomo entro il cerchio del mondo. Chi non ha mai giocato un piccolo scherzo al proprio simile, scagli la prima pietra. Io stesso oggi ne avevo giocato uno al nostro amico. Ah sì? Esclamò l'uomo Ezechiele e rise. Sì, uno scherzetto di due soldi, l'arrotino disse, e anche lui rise. Anch'io risi. E lo scherzetto fu raccontato e fummo in tre che ridevamo come bambini amici. Però questo viandante poteva lasciarmi i denari delle tasse, disse l'arrotino. Ah, punteruoli, urlò. E se questo viandante fosse la stessa persona guardia e accalappia cani che mi ha fatto la contravvenzione? Non è la prima volta che il mio guadagno della giornata va via proprio mentre la contravvenzione compare. L'uomo Ezechiele lo afferrò e tenne fermo per il braccio. «Coincidenza», disse, «non di questo genere sono le offese al mondo per le quali noi soffriamo».